appunto tendo a essere presenti, in primo luogo il presidente dell'Istituto Trentino di Cultura, che è la nostra casa madre, Cipriani, eccetera, il senatore Bruno Kessler, il presidente della provincia di Trento, l'assessore alla cultura Andreoli, che erano presenti nella scorsa settimana all'inaugurazione, ma i politici da loro possiamo pretendere solo una volta in settembre. È difficile poter pretendere una presenza. Un secondo, il fascismo è più attrattivo. La settimana scorsa abbiamo avuto la settimana su nazionalsocialismo e fascismo, che è stata molto interessante. Un secondo pensiero a colleghi che avevamo invitato, che ci sono stati vicini e che non hanno potuto venire per motivi così di impegni accademici, e ricordo tra questi il professor Stollais, il professor Reinhardt, Van der Weij, la pronuncia esatta, il professor Paier, di Zurigo, il professor Groman, erano stati tutti amici invitati che per motivi concreti non sono potuto venire. Molto semplicemente tocca a me, come dico sempre, in funzione di maggiordomo, ma i contemporanisti della settimana scorsa non hanno capito la doppiezza di questa mia attribuzione, hanno attribuito soltanto timidità, modestia. Invece qualche medievista può capire che c'è dentro anche un doppio significato, ma su questo appunto sì. Molti di loro sono stati già qui e quindi conoscono in qualche modo le regole della casa, specialmente i due coordinatori, che ringrazio ancora, il professore De Maddalena e Kay Lembens, hanno diretto qui 2 anni fa un seminario che tutti ricordiamo e i cui atti sono appunto appena pubblicati da noi, che è stato esemplare, e quindi proprio non c'è ben poco da dire. Per chi non fosse venuto, ricordo ancora una volta questa caratteristica assolutamente seminariale, non di convegni di congresso, e quindi di lavoro in fiere in cui ci si confronta su problemi concreti, dando il massimo spazio alla discussione, per cui ogni relatore gestisce la mezza giornata di lavoro in modo completo, senza l'affollamento di comunicazioni o di interventi preordinati. Invece gli interventi ci sono, ma inseriti in questo contesto. Ognuno parla la propria lingua madre, questa è un'altra caratteristica della casa, diciamo, non si pretende che tutti parlano l'altra lingua, ma che la comprendono sufficientemente. In ogni caso abbiamo il professor Kellenberg, che è multilingue, multilingue, e quindi interverrà a chiarire. Anche voi, sono Radoska. Ma io non ci sono per tutto il periodo. Professor Vanduska deve partire purtroppo mercoledì mattina, ma quando sarà qui il professor Vanduska è sempre il presidente dell'istituto, nel senso anche così effettivo di conduzione dei seminari, e quindi lascio a lui subito la parola. Grazie. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, Signore e Signori, cari amici, ich spreche Deutsch, aber ich glaube so langsam, dass mich auch die Italiener verstehen werden. Ich darf Sie hier sehr herzlich begrüßen. Ich habe als Präsident, also Vorsitzender des Comitato Scientifico, des wissenschaftlichen Beirats, ich habe oft schon den Witz gemacht, und das haben Sie ja im Wesentlichen auch verstanden. Der eigentliche Gründer des Instituts ist Paolo Prodi, und es ist bei uns so ähnlich wie bei den italienischen Parteien, dass der Sekretär der wichtige Mann ist und der Präsident nur so nebenbei, nicht so wie bei der Democrazia Cristiana, also der Demeter, und ich wäre sozusagen nur der Piccoli oder oder was weiß ich, er ist der Spadolini und ich wäre dann nur der Visentini und so weiter. Nun, jedenfalls, unser Institut ist, wenn ich das noch kurz sagen darf, das wissen Sie ja vielleicht alle, 1973 gegründet worden und schon 1974 haben wir die ersten zwei Seminare, immer eines in mittelalterlicher Geschichte und eines in neuzeitlicher Geschichte gehalten. Diesmal eigentlich zum ersten Mal ist es anders gewesen, weil gleichzeitig die Accademia degli Agiati gerade in diesen Tagen einen Kongress über il Trentino nel Medioevo abgehalten hat, bei der auch viele von unseren Leuten, Elze, Riedmann und so weiter, dort gesprochen haben. Und so haben wir diesmal ja außerdem ein ganz brennheißes zeitgeschichtliches Thema, eben Faschismus und Nationalsozialismus gehabt. Und jetzt hier dieses Thema, das ja ein überlappendes Thema ist, die Storia Medievale, Storia Moderna, das also hier diese Funktion auch hat. Wir haben voriges Jahr unser 20. Seminar gehalten, heuer das vorige Woche über Faschismo, Nationalsozialismo, das war das 21. Dieses hier ist das 22. Seminar. Also wir haben einen großen Teil, schon eine gewisse Erfahrung auch, schon eine große Erfahrung. Und ich glaube, dass es auch dieses Seminar sicher und noch dazu unter einem Team, das hier auch schon einmal war, Professor De Maddalena und Professor Kellenbenz, die wir vor zwei Jahren dieses über Finanze e Ragion di Stato nei primi secoli dell'età moderna, das ja schon auch publiziert ist, wenn sie damals hier geführt hat. Ich darf darauf aufmerksam machen, dass fast alle, und ich glaube alle unsere Publikationen im Vorzimmer, hier im Raum vorher, dort ausliegen. Ci sono tutte le nostre pubblicazioni, sono esposte qua fuori, chi si vuole interessare delle nostre pubblicazioni lo può vedere. Ich bin fest überzeugt, dass auch dieses Seminar ein großer Erfolg sein wird, so wie das über die Finanze e Ragion di Stato. Adesso passo forse all'italiano. Facciamo come al solito subito le presentazioni perché ci conosce, dobbiamo conoscere. Forse una cosa ancora che vorrei chiedere. C'è stato il pericolo anche in alcuni seminari prima, che in fondo invece di essere un seminario siano due seminari diversi, cioè quando parla un italiano poi gli italiani nella discussione si buttano su di lui e i tedeschi stanno zitti perché sono... o quando parlano i tedeschi subito un tedesco, subito i tedeschi che naturalmente... perché sono dentro ai problemi specifici della Germania, che parlano solo loro. Abbiamo la tendenza, io ho sempre tenuto molto a questo, che sia proprio un incrocio, che anche per elaborare le differenze, è facile con fascismo e nazionalsocialismo, ma è anche possibile in tutti gli altri campi, che ci sono certamente delle similitudini, delle concordanze e delle differenze. Noi vogliamo elaborare sia le une e le altre, vogliamo anzitutto avere un continuo dialogo, non uno da una parte e l'altro dall'altra parte. Quindi chiedo e domando di fare delle domande, appunto proprio nella discussione, quando parla un professore italiano, dass die Deutschen dann Fragen stellen, e quando parla un tedesco, che gli italiani facciano delle domande. Adesso andiamo subito nella nostra presentazione, cominciamo prima. Sì, abbiamo anche l'uso di, da qualche anno, di professori ospiti, professori che prendono parte al seminario senza perciò tenere una propria relazione. E prego adesso tutti, che io chiamerò poi i professori e i borsisti, che ognuno dica brevemente il suo nome, chi è, dove insegna e anche forse con che lavori sta, con che lavori ha contribuito proprio a quel tema o che interessi speciali ha in questo tema. Also ich würde jetzt die Namen dann einzeln aufrufen und die betreffenden Damen und Herren werden gebeten, also sich vorzustellen, was sie sind, wo sie arbeiten, was ihre besonderen Interessen sind. Fangen wir gleich an mit Professor Jean Béranger von der Universität de Rennes. Rennes und auch Paris. Paris, École des Hautes Études. Und mein Thema, mein Hauptthema war Finanz der Habsburger Monarchie in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Finanz Leopold I. Und ich habe publiziert in Französisch, leider darf ich sagen, ein Buch Finanz et Absolutismus autrichien, Finanzen und österreichischer Absolutismus in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Danke. Professor Adriano Borlandi, scusi, professoressa Antonia Borlandi, scusi tanto. Io insegno a Venezia, mi occupo di cose genovesi e in particolare dell'economia genovese del 400. Ah, benissimo. Allora lei fa un po' quello che facciamo noi fra Italia e Germania, lei lo fa fra Venezia e Genova, la mediatrice fra le due grandi rivali, fra Genova e Venezia. Grazie. Professor Giura, Vincenzo Giura. Ancora non è arrivato. No, ancora non è arrivato, il professor Klein non viene. Professor Aurelio Musi. Grazie. Professoressa Gabriella Rossetti. Io ho la cattedra di istruzione. Venga qua davanti, perché devo stare vicina. Ah, sì. Vicina, si appoggia a Piero. Ho la cattedra di istituzioni medievali a Pisa e poi mi interessa soprattutto perché ho il coordinamento di un programma interuniversitario che riguarda la storia dell'Europa mediterranea. Ed in particolare stiamo per fare un incontro che mi sembra molto simile, molto vicino a questo, che riguarda la presenza e il radicamento dei forestieri nelle realtà locali del Medioevo e degli inizi dell'età moderna in Europa, evidentemente. Questo programma di ricerca parte anche il nostro amico Schiera, il professor Tittolini di Milano e poi del Trempo di Napoli, siamo un gruppo interuniversitario molto vasto che si occupa di queste tematiche. Grazie. E poi ultimo professor Rodolfo Savelli. Sono dell'Università di Genova, insegno storia del diritto e mi occupo di storia delle istituzioni e storia della cultura giuridica fra 5 e 6 cento. Grazie. Adesso passiamo relatori, naturalmente prima di tutto quelli che conoscete, ma forse il professor Aldo De Maddalena, che è uno i due coordinatori, Maddalena e Kendens, il professor Di Maddalena, lei insegna a Milano. Sono esonerati dalla presentazione. Sono esonerati dalla presentazione. No, sono scoordinato. Sì. Il coordinatore è scoordinato. No, beh, adesso dirò quando rinvio. Anche lei rinvia. Sì. Io parlerò alla fine della settimana. Sì. Allora, professor Doria. Io sono Doria, insegno a Genova e ai commenti e mi occupo della mia città. Anche politicamente. E come Doria non può essere altro che Genova, no? professor Hildebrand. Ja. Ich bin in Aachen, an der Universität Aachen, Technischen Hochschule Aachen. Und habe über die Fugger gearbeitet, über die Schwedenfugger gearbeitet, 16. bis 17. Jahrhundert. Bergbaugeschichte, da ergibt sich was von selbst daraus, Handelsgeschichte hängt auch damit zusammen. Das sind so die Schwerpunkte im Wesentlichen, Zeitraum vor allen Dingen, internationaler Handel, internationales Bankgeschäft, 16. bis 17. Jahrhundert. Dankeschön. Professor Kirchgessner. Ich bin an der Universität in Mannheim. Meine Arbeitsgebiete sind neben der Industrialisierung des 18. und 19. Jahrhunderts, Finanz- und Sozialgeschichte des 14. und 15. Jahrhunderts und insbesondere die Möglichkeit der Rekonstruktion sozialer Strukturen und sozialer Verhältnisse im Wechselspiel zwischen Geldfinanz und öffentlicher Gewalt. Dankeschön. Professor Mandic. Sono pensionato, sono venuto da tempo, mi sono occupato di storia economica, specialmente in materia cambi, monete e materie. Grazie. Siamo molto contenti di avere il professor, se posso dire questo, il professor Mandic fra di noi, che è un noto esperto della sua materia. Professor Muto. Io lavoro presso l'Università di Salerno e da anni mi occupo dei rapporti tra Stato e finanzi e privati circa la gestione finanziaria e il fabbisogno dello Stato nella politica moderna, e in particolar modo tra il Regno di Napoli e il centro dell'impero della sinistra castigliana. Grazie. Professor Enrique Otte. L'America Institute der Freien Universität Berlin. Ich mache vor allem Lateinamerika-Geschichte, frühe Neuzeit, und eigentlich nur am Rande Wirtschaft und Sozialgeschichte Spaniens, vor allem Sevilla. Also ich habe lange in Sevilla gelebt, ich kenne die Archivalien in Sevilla besonders gut und mache da Wirtschaft und Sozialgeschichte 16. Jahrhundert, zurzeit etwas über die Kaufleute der frühesten Zeit, also vor der Entdeckung Amerikas. Meine These ist, dass die Prosperität Sevillas nicht eine Folge, sondern eine Ursache der Entdeckung Amerikas war. Also hier bin ich eigentlich nur Gast. Das verdanke ich Herrn Kellenberg, zu dem ich seit vielen Jahren zusammenarbeite. Ich bitte um Entschuldigung, wenn ich nicht ganz in den Rahmen passe, denn Papiers sind nur insofern für mich von Interesse, wie ich sie in Sevilla relevant sind. Sevilla und Madrid natürlich, sie machen das. Aber die Finanzen in Sevilla haben ja eine große Rolle für die Finanzen Europas gespielt. Dankeschön. Professor Ottmar Pickel aus Graz, der Wirtschaftshistoriker. Ich vertrete an der Universität Graz die Wirtschaft am Historischen Institut der Universität Graz, die Wirtschaft und Sozialgeschichte, und arbeite vor allem im Bereich des habsburgischen Teilstaates Innerösterreich, zu dem ja auch Friaul gehört hat, und im speziellen Handels- und Verkehrsgeschichte von der oberen Adria in den Donauraum und in den Pannonischen Raum. Danke schön. Professor Vasquez de Prada. Io sono professore alla di storia moderna alla Facoltà di Pamplona, Spagna, e mi occupo sulla finanza e l'economia, l'economia dell'epoca di Filippo II, e le finanze, e soprattutto la relazione con Anversa e l'Espagna in 500 e la prima metà del 600. Grazie. Adesso passiamo ai borghesi. Scusa, una mia dimenticanza, dovevo qui ringraziare il professor Felipe Ruiz Martin anche, che non è potuto venire, aveva accettato invece di essere tra di noi per malattia, ecco, che impedisce proprio fisicamente la partecipazione qui, ma lo vogliamo ricordare perché praticamente era stato pensato dentro il seminario. Grazie. Adesso passiamo ai borsisti, gli stipendiati, Marcel Albert, oder Albert, sprechen Sie sich nennen? Albert. Albert. Ja. Ja, ich bin Theologe und arbeite in Rom an einer Dissertation für die Uni Bonn über die Kölner Nunziatur an der KBO Kirche. Also mit unserem Mitglied Röttgen, mit Herrn Röttgen haben Sie sicher Kontakt. Er ist ja Mitglied unseres Comitato Scientifico auch. Der hält dann in November. Ich indica già il rapporto con i temi del seminario. Sì, appunto. Signora o signorina. Altieri, Orietta Altieri. Io mi sono laureata a Udine e con una tesi sullo sviluppo demografico ed economico della comunità ebraica di Gorizia. Tuttora mi occupo della storia degli ebrei in Udine. Grazie. Fräulein Cornelia Baumann. Etwas deutlicher und lauter und langsamer. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie als Opfer für eine Bemerkung mache, die für alle auch gilt. Bitten. Dankeschön. Bei Kollege Koch. Ja, Herr Markus Brandl. Mit Spätmittelalter, speziell mit Spätmittelalter. Dr. Marco Cavina o Cavina? Cavina. Cavina. Io sono laureato in giurisprudenza, mi occupo della storia del diritto nel periodo rinascimentale soprattutto, sono lanciato e l'umanesimo giuridico. E su? Umanesimo giuridico, scusi. A Bologna. Pierluigi Castagneto. Università di Pisa, mi sto laureando in una tesi economica. Ah. Con la professoressa Rossetti. Che? Con la professoressa Rossetti. Ah, con la professoressa Rossetti, sì. È importante forse anche avere i padrini. Sì, i padrini, sì. Da noi si dice doctor fata. Il padre, sì. Dottor Francesco D'Esposito. Sono laureato a Napoli, con il professor Federico. Adesso lavoro in Spagna, occupandomi della partecipazione degli italiani nella colonizzazione del popolo dell'America. Grazie, allora proprio un tema che anche entra molto nel nostro. Dottor Michael Knepton, sì. È già stato una volta qui? Sì, il mio padrino è Stuart Jones, sono autonomo di area padovana, per intenderci. Un elemento autonomo di Padova è pericoloso. ma non appartiene all'autonomia di Padova. No, non organizzare. Non organizzare. Faccio cose veneziane, soprattutto stato e società nell'area della finanza pubblica, tra 3 e 700, quindi sono molto ambizioso. Grazie. Dottor Roberto Mantelli. Io lavoro da alcuni anni sulle finanze pubbliche napoletane sotto la direzione del professor Luigi De Rosa e sto cercando soprattutto di utilizzare le fonti spagnole in questo lavoro. Sì, ma lei lavora a Genova, ma De Rosa è a Napoli. Sono genovese, ma manco da Genova da 20 anni. Ah, cioè, lei lavora a Napoli? A Napoli, ma soprattutto lavora in Spagna. Ah, grazie, grazie. Così, perché Andreas Preuss. Ich studiere noch in Bamberg an der Universität und mache jetzt dieses Jahr meinen Studium in Bayern im Stromanzug. Also Stromer, der sich ja sehr intensiv mit dem mit dem Nürnberger Adel und so weiter beschäftigt hat, ja. Dann ist Christopher Chevian, ist der hier? Non è venuto? Signor Christopher Chevian, non c'è? Non è, pare che non sia venuto. Paul Thomas. Guten Tag, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Universität des Saarlandes in Saarbrücken bei Professor Dr. Klein. Zwangsläufig beschäftige ich mich vor allem mit Geld, Banken und Finanzgeschichte. Und im Speziellen habe ich jetzt gearbeitet über Sparkassengeschichte. Darüber habe ich auch promoviert. Und habe jetzt angefangen, mich mit der Geschichte kommunaler Finanzen zu beschäftigen. Danke. Dr. István Győri Tóth. Sono István Tóth, da Budapest lavoro all'Istituto dell'Accademia, insegno per la storia universale alla facoltà, sono studioso del signor Bender e del signor Mackay e mi occupo della storia sociale della regione dell'Ungheria occidentale, attualmente Burgenland. Mi interessa soprattutto come per la struttura sociale è divenuto un vantaggio in Turchi, la presenza dei turchi, perché c'era una tendenza per la liberazione dei contadini e di tutta la società nel XVII secolo. Grazie, vielen Dank. Dai turchi ai turchini. Grazie, dai turchi ai turchini. Dottor Angelo Turchini. Mi sono laureato a Padova. Sono venuto altre volte. È un vecchio collaboratore. Io collaboro al centro IEBIN che è presente in questa sede. Mi sono occupato di storia della controriforma e di storia sociale e da questo punto di vista sto passando all'esame della storia sociale di una realtà regionale dello Stato Pontificio, cioè la Roma. Grazie. 500, nel 500. Adesso diamo subito la parola. Sì, una piccola continuazione di autopresentazione, ecco, la giunta dell'istituto è tutta qui, oltre il presidente c'è il professor Schiera, eccolo, c'è il professor Corsini, era qui il professor Roger là in fondo. Ah, il professor Roger, Don Eugenio Roger che è anche direttore, ciao. Ecco, la nostra presenza è appunto di persone a casa, tutti insieme, quindi in questi giorni è utile in qualche modo. E c'è qui anche Pepe Olmi, no? Anche lui vaga. Anche lui vaga. Allora, professor, no, c'è anche lui, ecco. Ecco, Pepe Olmi che si occupa, anzi, che è uno dei grandi... Caracciolo? Caracciolo, no. No. No, Gauro Coppola, Gauro Coppola, sì, che qui specialmente Coppola che è professore di storia economica qui all'Università di Trento e che è uno specialmente interessato perciò in questo seminario e che è uno dei organizzatore di questo seminario. Che altro l'altro può dire lei? Ma che mi occupo della storia economica dell'età moderna nella parte settentrionale italiana. Dunque, allora ci conoscete tutti? Corsini è quello con la bella barba da vecchio alpino. Ecco. No, per Coppola, ecco, bisogna proprio dire che appunto ha tenuto tutti i contatti con il seminario, sì, una gratitudine particolare.